Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Speciale: come si diventa scrittori. Scrivere un libro, il sogno nel cassetto di migliaia di persone. Come si diventa scrittori? Come si arriva a pubblicare? Proveremo a spiegarlo in questo speciale. Ma dicevamo che scrivere un libro è il sogno nel cassetto di molte persone, e a volte questo può sembrare paradossale in un paese come il nostro, che ha in Europa fra i più bassi indici di lettura. Non ci stancheremo mai di ripetere questi dati. Solo 4 italiani su 10 hanno acquistato almeno un libro in un intero anno. Gli altri 6 semplicemente non leggono, insomma. Eppure, dicevamo, molti hanno il sogno di scrivere, soprattutto di vedere pubblicato un romanzo, e infatti negli ultimi tempi c'è proprio il boom di chi permette di stampare un libro, naturalmente a pagamento. Ma finché è chiaro tutto dall'inizio, cioè io ti pago un tot, tu mi stampi il libro, va benissimo. Il problema nasce nel momento in cui ci sono quelle case editrici, quelle sedicenti case editrici che promettono di pubblicare un libro, ma che poi nel contratto inseriscono queste clausole che, insomma, che sostanzialmente obbligano l'autore ad acquistare le copie. Quasi sempre sono tutte le copie, quindi è come praticamente pubblicarlo a pagamento, ed è la stessa cosa. Per arrivare invece a pubblicare un'opera prima, insomma, le vie sono veramente diverse. Per esempio, una strada potrebbe essere quella dei concorsi letterari per inediti. Ce ne sono veramente tantissimi. Sono un modo per farsi conoscere, e in alcuni casi, tra l'altro, come premio c'è proprio la pubblicazione da parte di una casa editrice. È il caso del concorso In Primis, organizzato dalla casa editrice Newton Compton e della banca di Cherasco. È rivolto ad aspiranti scrittori fra i 20 e i 40 anni. Sono stati accettati i primi 500 manoscritti arrivati, quindi purtroppo non ne possono essere inviati di più. Fra di questi ne verranno selezionati 3, poi ci sarà una giuria popolare di 20 persone, ma soprattutto una giuria tecnica di esperti, composta da 4 persone, che sceglierà a dicembre il vincitore. Il premio, dicevamo, è la pubblicazione del romanzo, con una tiratura di 8.000 copie, che è una tiratura di tutto rispetto, anzi un'ottima tiratura per un esordiente. Ma secondo quali criteri sono stati selezionati questi 500 manoscritti? E in genere come si capisce che un testo è veramente buono per essere pubblicato, per diventare un romanzo? Lo abbiamo chiesto a Giusy Sorvillo, editor della Newton Compton Editori. Teniamo presente che noi, in quanto editori, siamo abituati a mole di manoscritti, quindi rispettiamo la natura della selezione. E questi 500 per noi sarà fondamentale tener conto soprattutto della tenuta narrativa e letteraria del testo. Quindi non faremo differenziazione tra genere, young adult, thriller, giallo, noir, o più che chick e lit e via dicendo. Noi in realtà vogliamo far emergere da questo concorso le aspirazioni dei giovani italiani che vogliono scrivere, cosa vogliono scrivere, dove stanno andando, perché spesso si dice che il romanzo è morto. In realtà il romanzo non è morto, vediamo da questi concorsi, da questi premi letterari, che non è morto il romanzo e non è morto lo scrittore. Cerchiamo allora di tirarli fuori, questi giovani esordienti. Ecco, a questo proposito, esiste veramente il famoso manoscritto nel cassetto che nessuno ha mai voluto pubblicare ed è veramente così straordinario? Beh, in realtà, in questo momento faccio mia culpa, noi abbiamo bocciato Moccia, ecco. Vi siete pentiti? Assolutamente, ogni sera faccio mia culpa, ho il sentino di Moccia. Nel senso, sì, può capitare. Così come lo abbiamo bocciato noi, è stato bocciato da altri editori, ma probabilmente è stato bocciato perché erano periodi non maturi per quel tipo di letteratura, perché 10 anni fa l'editoria italiana chiedeva determinate cose sul mercato, oggi ne chiede altre, quindi sicuramente un romanzo nel cassetto in Italia c'è. Un romanzo negato da tutti gli editori in questo momento sarebbe validissimo. Young adult, ma 15 anni fa non si sapeva nemmeno che cosa fosse, adesso non si parla di altro e non si vende di altro. I vampiri, se a me mi avessero proposto a inizio carriera un vampiro, i capelli mi si sarebbero drizzati in testa, invece adesso ben vengano. Chissà, probabilmente io ho bocciato un romanzo ieri che, spero di no, tra 10 anni diventeranno i prossimi Paolo Giordano, i prossimi Moccia, i prossimi... Ma non lo so, spero di accettarlo. Comunque questa volta non voglio fare lo stesso errore. Che consiglio darebbe a chi desidera arrivare alla pubblicazione di un libro? Avere prima di tutto molta umiltà, perché molto spesso si ha, mi arrivano molti manoscritti di autori che già si sentono grandi autori, e questo è un limite per la scrittura stessa, perché invece la scrittura è un'arte, è un mestiere molto spesso che cresce in divenire. L'umiltà, il consiglio, il suggerimento deve essere accolto, e poi bisogna leggere tanto, perché l'invito alla scrittura va benissimo, ma deve essere legato a un invito alla lettura. Più si legge, più si scrive bene. Un consiglio pratico: è vero che voi editor guardate soprattutto le prime 20 pagine, se queste non vanno bene non proseguite oltre nella lettura? Assolutamente sì, perché anche questo, noi siamo artigiani, siamo anche noi mestieranti. Ovviamente dopo 20 anni di manoscritti uno sa cosa c'è là dentro dalle prime 20 pagine. Se quelle 20 pagine vanno bene, sei mosso ad andare oltre. Se le prime 20 pagine sono un disastro linguistico, sintattico, grammaticale, è veramente difficile. Ovviamente corriamo il rischio, il solito rischio Moccia, d'accordo? Però è vero, da 20 pagine si capisce, come immagino in qualsiasi tipo di mestiere, dopo avendo gli strumenti sai decifrare il materiale che hai sotto mano. Un errore da non fare mai per un esordiente: che cosa leggendo un manoscritto le fa subito dire no, questo sicuramente non andrà bene? Oddio, un errore è veramente troppo poco, perché gli errori... Più di uno? Ci sono delle cose che appena si vedono, non so, magari degli accenti sbagliati, degli errori di grammatica? Ecco, un grande errore è sottovalutare la lingua italiana, perché la lingua italiana è alla base di qualsiasi tipo di scritto, che può essere un romanzo, un racconto o la lista della spesa. Bisogna rispettare le nostre leggi per decodificare il nostro pensiero, quello è sacrosanto, ed è rispettoso nei confronti di qualsiasi tipo di testo. L'avete sentito, Giusy Sorvillo, editor della Newton & Compton, aveva bocciato Federico Moccia. Ma ci sono nella storia altri casi famosi di rifiuti sbagliati. Insomma, esiste il capolavoro che rimane nel cassetto perché gli editori non hanno la capacità di valutarlo? Abbiamo girato questa domanda a Mario Baudino, che è un giornalista culturale della Stampa, ma anche autore di Il Gran Rifiuto, storie di autori e di libri rifiutati dagli editori, un libro pubblicato da Passigli. Sentiamo Baudino. Esiste come? Diciamo che esiste, è assolutamente comune che il libro dotato di qualche forza innovativa trovi delle grandissime difficoltà ad essere pubblicato, sia che questa novità abbia un connotato del tutto letterario, sia che questa novità abbia un connotato più di mercato. Per esempio è notissima la storia di Harry Potter. Harry Potter è stato rifiutato da tutti gli inglesi, tutti gli editori possibili e immaginabili, ed è passato, diciamo, soltanto grazie a una serie di incredibile, forse magica, di circostanze. Adesso non vogliamo farla lunga, ma insomma la povera Rowling, disperata perché di tutti questi rifiuti, dice proviamo con un agente, lei non conosceva nessuno. Allora guarda sull'elenco del telefono o sull'elenco degli agenti e sceglie uno che si chiama Little, ma lo sceglie perché le piaceva il nome, e manda il libro a questo signore. Questo signore lo mette lì a morire insieme a tutti gli altri, e poi per una fatale distrazione un mattino, avendo un appuntamento a colazione con qualcuno, lo prende, ma sbagliando, credendo di prendere un altro manoscritto, prende Harry Potter pensando: mentre aspetto il mio commensale comincio a dargli un'occhiata. Si siede, comincia a dargli un'occhiata, a notare, non si accorge assolutamente che era il manoscritto sbagliato, il commensale ritarda, lui non si accorge assolutamente di nulla perché non riesce a smettere di leggere. A questo punto capisce di avere in mano una vera bomba e via, e di lì in poi la via fu spianata, ma per una serie di fortunate circostanze. E possiamo invece fare un esempio, come dire, di altissima letteratura. È notorio che Joyce, proprio per la sua carica provocatoria, ebbe grandi difficoltà a pubblicare sempre, anche perché i suoi libri erano poi anche ritenuti scandalosi, quindi già gente di Dublino, no? I Dubliners furono pubblicati con grandissima fatica. Insomma, gli editori, quando prendono queste grandi cantonate, cercano comunque di darsi una giustificazione. Cercano di darsi una giustificazione, però è anche vero che la storia delle case editrici, e soprattutto delle case editrici di cultura, si fa anche e forse soprattutto con i no che hanno pronunciato, più che con i sì. E tutti si sono lasciati scappare il libro importante, e tutti quelli che sono sopravvissuti, ben inteso, hanno trovato libri importanti. Molto spesso i libri sono destinati, senza saperlo, sono destinati a un editore, esattamente come nei rapporti amorosi. Secondo me il mondo dell'editoria, dei traffici editoriali, sono quelli che più da vicino ricordano, come dire, l'arena d'amore, perché sono fatti appunto di rifiuti, di concessioni, di rese, di seduzioni fortemente irrazionali, basate di rancori terribili, di inimicizie terribili e di dedizioni totali, basate però su che cosa? Non su niente, su una cosa molto importante che non si riesce a definire, sull'aspetto sentimentale delle persone. L'editoria non è una scienza esatta. E questo era Mario Baudino, autore di Il Gran Rifiuto, storie di autori e di libri rifiutati dagli editori. Ci sono veramente molte curiosità in questo libro. E non è stato rifiutato, anzi, potremmo dire con un gioco di parole che la Rizzoli ha avuto fiuto quando ha scelto di pubblicare l'opera prima di Silvia Avallone, un po' il caso editoriale del 2010. Stiamo parlando del romanzo Acciaio. Il cacciatore di libri. Come si diventa scrittori, come si arriva a pubblicare il primo romanzo? Ne stiamo parlando in questo speciale. Prima, tra l'altro, accennavamo a Silvia Avallone, rivelazione dell'anno con Acciaio, che tra l'altro è veramente un bel romanzo. È ambientato nei quartieri popolari di Piombino, dove tutto, insomma, gira intorno a questa acciaieria. Tutti gli uomini sostanzialmente lavorano lì. Le protagoniste sono però due quasi quattordicenni, come proprio scritto nel libro, che sono belle, sfrontate e che mettono la loro amicizia al sopra di qualsiasi cosa, finché insomma accadrà qualcosa che non vi riveliamo naturalmente, che cambierà la situazione e le loro vite. Ma dicevamo, come è arrivata la Avallone alla pubblicazione? Da appunto esordiente, si è affidata ad un agente letterario o ha preferito il fai da te? Sentiamola. No, io non l'ho preso l'agente, né prima né adesso, perché poi è bello anche avere dei rapporti umani, insomma, anche col mondo editoriale. Mi piace sempre la prima persona, è molto importante, soprattutto quando si scrive, parlare a tu per tu con le persone che poi ti seguiranno. Io in effetti ho appunto lavorato moltissimo prima di mandare fuori dalla mia stanza quello che scrivevo. Ho preso i miei capitoli migliori e sì, li ho mandati a Rizzoli, la quale, con mia grandissima sorpresa, dopo 2 settimane circa mi ha richiamata. Insomma, anche dai meriti sconosciuti si riesce a, come dire, a puntare al cuore di una casa editrice? Ma secondo me sì, perché poi sono appunto tutti affamati di novità, il pubblico, gli editori in generale, quindi l'importante appunto è lavorare molto bene, mandare sempre quando si è comunque un po' sicuri che c'è valore. A quel punto lì bisogna affrontare, se c'è un no non bisogna perdere le speranze. E sempre quest'anno, oltre a Silvia Avallone, ha avuto un bel successo il libro di un altro esordiente, Alessandro D'Avenia, con Bianca come il latte e Rossa come il sangue. Anche in questo caso una storia di adolescenti, un filone insomma che sembra tirare molto negli ultimi anni. Mi ricordo in questo momento La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano, che credo a questo punto sarà arrivato a sfiorare quasi 2 milioni di copie vendute. Bianca come il latte e Rossa come il sangue è la storia di un 16enne Leo che è perdutamente innamorato di una ragazza, Beatrice, che però è gravemente malata. L'autore, Alessandro D'Avenia, nella vita è professore di lettere in un liceo di Milano, e appunto anche a lui abbiamo chiesto come è arrivato a pubblicare il suo primo romanzo. Sentiamolo. È successo intanto che per 3 anni c'è stata una, diciamo, creazione interiore. Avevo questo personaggio che premeva dentro, quindi ho cominciato a guardare la realtà con le domande del personaggio. Questa è la cosa straordinaria della scrittura, che ciò che è disperso nella realtà si catalizza dentro di te proprio perché il tuo personaggio ha quelle domande, quindi scopri parti nuove della realtà. Poi ci ho messo 2 anni a scriverlo, quindi con calma, perché essendo professore il tempo è poco, e soprattutto d'estate, che è il periodo magico per gli insegnanti, e poi nel weekend è nottetempo. Dopo averlo scritto, siccome comunque questa era parte di questa quotidianità che era andata crescendo in maniera molto naturale, molto semplice, ho detto vabbè, abbiamo sognato fino adesso, mi sono divertito, continuiamoci a divertire. Allora ho mandato il manoscritto alle 2 case editrici più importanti che abbiamo in Italia, con un minimo di, diciamo, di piedi per terra, per cui chi è la persona a cui lo devo mandare perché non venga cestinato immediatamente, quindi almeno nome e cognome esatti, cosa che a volte magari non succede. E in maniera sorprendente, dopo una settimana, Antonio Franchini, che è l'editor della narrativa italiana di Mondadori, mi ha chiamato. Io ero appena uscito da scuola e mi ha detto: questa telefonata è un contratto. Io pensavo che fosse un mio amico a cui avevo fatto leggere il romanzo di anteprima, che mi stesse facendo uno scherzo, quindi ho detto ma dai, smettila, non ti pare, ho appena finito la giornata di scuola, lasciami in pace. Allora lui ha ripetuto, dice no, guarda, sono proprio Antonio Franchini di Mondadori. Quindi è stato veramente una cosa molto molto semplice e naturale, direi quasi. Ancora testimonianze di scrittori esordienti. Dai successi del 2010 invece passiamo ad uno scrittore che è stato il caso letterario invece del 2009. Parliamo di Christian Frascella. Aveva stupito piacevolmente sia la critica che il pubblico con Mia sorella è una foca monaca. In genere, quando si ha molto successo con l'opera prima, si attende un po' di tempo prima di uscire con il secondo libro. Invece Frascella ha deciso di no, insomma, ha deciso di bruciare un po' le tappe e si è lanciato già subito quest'anno con la sua seconda opera, che si intitola 7 piccoli sospetti, sempre pubblicato da Fazzi. Ma ecco come Frascella è arrivato da emerito sconosciuto a pubblicare il suo primo romanzo. Ho avuto fortuna, ma sono stato anche abbastanza intelligente nel scrivere innanzitutto 3/4 di romanzo. Lì ho riflettuto, se lo porto a termine interesserà a qualcuno, allora mi sono domandato perché non lo faccio leggere a qualcuno del settore, e chi sono quelli che operano nel settore? Gli editori. Ho cercato gli editori non più grandi, ma quelli medio piccoli, e ho inviato a 10 di queste case editrici il romanzo, ancora non finito, e non sono mai finito nella pila dei manoscritti mai letti, quelli che si impolverano, che fanno arrabbiare gli aspiranti. 8 giorni dopo che avevo spedito via email, perché sono pigrissimo, 3/4 del romanzo, mi hanno chiamato da Fazzi e erano interessati. Sensazione, emozione di quando ti hanno chiamato? Un'emozione grandissima. Queste sono frasi fatte per uno che ha sempre sognato di pubblicare fin da quando ha cominciato a leggere e quindi a scrivere. All'inizio c'è una sorta di paura, poi incredulità, e poi col tempo capisci che sei rinato per fare quello, è quello che devi fare, non c'è altro da dire in merito. Tu sei stato spesso definito ex operaio, adesso anche ex lavoratore di call center, perché non lavori più neanche in un call center, quindi ora col secondo romanzo quindi riesci a vivere di scrittura? Vivo di scrittura perché il mio editore è stato tanto buono da credere che insomma col tempo sarei stato in grado di scrivere anche un secondo romanzo. Mi ha dato appunto la possibilità di lavorare serenamente. Io avevo questa storia da raccontare, l'ho scritta, però naturalmente si è tutti precari in questo periodo, anche gli scrittori sono precari. Se il romanzo non dovesse andare bene, valuteremo la situazione, ci ricicleremo in qualcos'altro. Ancora un esordiente, Beatrice Valsecchi, ha pubblicato il romanzo Un sogno di torta fritta e marzapane. Ecco com'è andata la sua avventura. Nel mio caso diciamo che è passato un po' da manuale, nel senso che finito il libro mi sono rivolta a un'agente letteraria e lei l'ha visionato, l'ha apprezzato e me l'ha venduto lei, quindi è stata una cosa proprio secondo i canoni. Quanto tempo è passato dal momento in cui l'hai presentato alla gente al momento in cui la casa editrice ti ha contattata? Ma sono stati pochi mesi, 2 o 3 mesi, ma è stato un caso molto fortunato, mi rendo conto, per cui è stata una cosa così, si vede che era il suo momento, poi so che non può essere sempre così, che non sarà sempre così, neanche per me. C'è stato un criterio particolare che hai adottato per scegliere la gente o sei andata un po' a caso? ho sentito delle persone che lavoravano in questo settore che conoscevo per caso, chiesto di una persona seria, ecco, tutto lì. Diciamo, già partivo dall'idea di scartare certi che o chiedono soldi solo per essere eletti o comunque, cioè, solo per leggere, e quindi diciamo che mi sono affidata e mi trovo bene, quindi per ora sono contenta così. Queste dunque le esperienze di alcuni giovani scrittori. Prima parlavamo dei concorsi letterari come un modo per arrivare alla pubblicazione di un'opera prima, ma un'altra via può essere per esempio quella dei corsi, delle scuole di scrittura. Al di là, insomma, dei contenuti, delle cose che queste scuole possono insegnare, sono importanti proprio i docenti, nel momento in cui riescono a fare un po' da tramite, nel momento in cui forniscono dei contatti proprio con il mondo dell'editoria per persone che evidentemente mostrano del talento. Una delle scuole in Italia di riferimento a questo proposito è la Holden di Torino, scuola di scrittura e storytelling, quella fondata da Alessandro Baricco, per intenderci. Che cos'è e come funziona ce lo racconta la direttrice della Holden, Lea Iandiorio. La scuola Holden è una scuola di scrittura e storytelling, quindi è una scuola per chi ha voglia di apprendere le diverse tecniche di scrittura, non soltanto per chi vuole diventare romanziere, ma anche per chi vuole lavorare negli altri campi della narrazione come il cinema, la televisione, il web, eccetera. Però diciamo che sicuramente chi viene alla scuola Holden a frequentare il nostro corso principale ha il desiderio di diventare scrittore, cioè la maggior parte di loro vuole diventare scrittore. Noi offriamo loro un corso di 2 anni in cui le persone vengono e frequentano la scuola tutto il giorno da ottobre a maggio e affrontano diversi aspetti della scrittura, incontrando le persone che lavorano nel campo della scrittura, quindi non, diciamo, i professori che fanno teoria eccetera, ma quelle persone che lavorano nel mondo della narrazione, nell'editing, nel cinema, al teatro eccetera eccetera. E forniamo loro una formazione complessiva e trasversale, cioè l'idea di base della scuola Holden è: se vuoi diventare uno scrittore di narrativa, secondo noi devi imparare a scrivere bene i dialoghi per una soap opera; se vuoi diventare sempre vuoi scrivere per la narrativa, devi anche saper scrivere un monologo per il teatro. Gli studenti hanno così la possibilità di stare a contatto con persone che sono già nel campo dell'editoria. Questo li favorisce poi per la loro futura carriera? Questo è un aspetto molto importante, cioè il fatto di essere, diciamo, come diciamo noi, a bottega, quindi di stare accanto a un maestro, sia uno scrittore sia un editing, è molto importante per il futuro. Però questo dipende molto anche dalla persona stessa, dallo studente stesso, diciamo. Ci sono quelli che magari si mettono già in vista durante i 2 anni e quello invece che magari non ha il coraggio in un secondo momento di non so, mettersi in contatto, e lo fa magari attraverso la scuola. Avete un'idea anche in percentuale di quanti studenti che escono dalla Holden e che poi effettivamente riescono a pubblicare un libro? Noi proprio l'anno scorso abbiamo fatto un'indagine, abbiamo intervistato tutti i 400 e passa studenti che si sono diplomati dal 94 a oggi, e su 400 studenti abbiamo fatto il calcolo che ci sono stati 60 esordi. Questo per noi è una cosa molto positiva, cioè un elemento molto positivo, intanto perché non è che abbiamo l'ambizione che tutti quelli che vengono devono per forza diventare scrittori, ma possono lavorare nei diversi campi della scrittura, e 60 esordi comunque sono un bel numero, tra l'altro con anche dei risultati interessanti. Facciamo dei nomi a questo punto. Chi è che è uscito dalla scuola Holden? Il più famoso che tutti sanno è Paolo Giordano, anche se devo dire Paolo Giordano ha frequentato i nostri corsi, diciamo quelli serali o quelli, diciamo, fatti nel weekend, quindi non ha fatto il corso biennale. Altri nomi illustri, diciamo molto bravi, sono Davide Longo, che adesso ha pubblicato un ultimo libro per la Fandango, un libro stupendo, Giorgio Vasta, anche lui è un autore molto interessante, Emiliano Poddi, che adesso ha pubblicato un suo secondo libro sempre per Instalibri, poi non so, adesso è uscito anche Emanuele Bianco, questo libro molto discusso sui giovani, la periferia di Milano, i giovani sempre per la Fandango, oppure Elena Varvello, Evelina Sant'Angelo per l'Einaudi, Fabio Geda, anche lui ha frequentato i nostri corsi, anche lui con i nostri corsi serali, insomma ci sono dei bei nomi. Quanto costa frequentare la scuola Holden, diciamo il corso principale, quello di 2 anni? Beh, il corso, intanto bisogna dire che il corso principale si può accedere con un esame d'ingresso che noi facciamo ogni anno a giugno. Una volta fatto il test, noi facciamo una graduatoria. I primi 10 in graduatoria pagano ogni anno 4.700 all'anno, mentre dall'undicesimo al trentesimo pagano 7.700 all'anno. Avete sentito dalle parole di Lea Iandiorio, direttrice della scuola Holden di Torino, che da lì sono passati scrittori come Paolo Giordano, ma anche Fabio Geda, che è stato uno degli autori dei successi del 2010 con Nel mare ci sono i coccodrilli. Vi abbiamo dato dunque un'idea di come si possa arrivare a pubblicare un libro. Facciamo un piccolo vademecum per concludere, l'abbiamo sentito anche prima. Innanzitutto, scrivere in italiano corretto. Sembrerà superfluo dirlo, ma insomma l'avete sentito anche dalla editor della Newton & Compton, che veramente alle case editrici arrivano manoscritti con errori madornali e ovviamente non possono essere presi in considerazione. Poi avere molta cura, soprattutto nella stesura delle prime 20 pagine. Se quelle non vanno bene, gli editor non vanno oltre nella lettura. Poi bisogna inviare il manoscritto alla giusta casa editrice. Insomma, se si è scritto un romanzo, non so, di chick lit, il genere alla Bridget Jones, non ha senso proporlo, per esempio, alla Delphi, che è una casa editrice che non pubblica quel genere di romanzo. Poi personalmente dico che insomma non bisogna avere poi paura di osare con le grandi case editrici, l'avete sentito anche dagli scrittori esordienti. Anche in questo caso però bisogna informarsi su chi sia l'editor che cura il genere del romanzo che abbiamo scritto. Eventualmente ci si può rivolgere ad un agente letterario che, lo ricordiamo, prende una percentuale sui guadagni dello scrittore. Bisogna invece diffidare di chi chiede soldi solo per valutare un manoscritto, quindi prima ancora della pubblicazione. E infine, lasciatecelo dire, il consiglio forse più importante per arrivare a scrivere e a pubblicare un libro: leggere, leggere, leggere. Insomma, chi non legge non può pretendere di scrivere qualcosa che appassioni qualcun altro. Anche per questo speciale dedicato a come si scrive un libro è tutto. Un saluto da Alessandra Tedesco.